Il successo quest'anno non era affatto scontato. Da un lato la crisi, che ha limitato le risorse degli organizzatori, ma anche influenzato i comportamenti dei visitatori. Dall'altro la paura di nuove scosse dopo il terremoto di maggio, che avrebbe potuto frenare gli arrivi. Alla fine il Festival Letteratura di Mantova ha retto il colpo, come spiega una delle organizzatrici, Marzia Corraini. Abbiamo cercato di usare le risorse mettendole in quelle che noi credevamo fossero i punti giusti. Non abbiamo rinunciato a nessuno, perché noi paghiamo viaggi, non gettoni. Sicuramente rispetto l'anno scorso ci sono diversi incontri in meno. Proprio per venire incontro alle esigenze del pubblico, quest'anno ci sono stati 72 incontri a pagamento in meno, mentre sono aumentati quelli gratuiti. Complessivamente le presenze sono in linea con l'anno scorso, 62.000 biglietti staccati, oltre 40.000 le partecipazioni ad eventi gratuiti. Fra gli incontri più seguiti, quelli di Gramellini, Ligabue, Natalia Aspesi, Fulvio Hervas e la retrospettiva sul Nobel Toni Morrison. Quanto agli scrittori poco noti proposti dal festival, successo per l'islandese Jón Kalman Stefánsson, pubblicato in Italia da Iperbo. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Mantova.